Canzone per molti movimenti. Tra domande e sigarette, risposte non dette prima, ora più chiare, chiedimi di me ciò che sai di te. Ti dirò di te ciò che so di me. Tra due persone e tra movimenti, non lasciamo che il silenzio ci taccia, che la forza di parole d'altri di noi non lasci traccia, che le pressioni ci tocchino vicenda per mano nostra, che l'altro ci dica non parole, ma chi dovremmo essere, che ci posizioni prima del tempo che ci sarebbe servito per scegliere il nostro posto. Non lasciamo che la paura di dirsi, di dirci, di darci ci disaccosti, disarmi e disusi. Facciamo che parli, perché a guardarci non siamo poi così differenti. In effetti spesso viviamo le stesse paure, le stesse contraddizioni, cicatrici, parole di protesta, gli stessi corpi. Corpo, cammina con me, con i piedi, con i tacchi, con le ruote, con le mani, con i solchi, di quella saggezza di vita che scorre tra i movimenti di chi scalza, danza. Di chi scalzo scalcia, di chi sola guarda, sorridendo alla differenza perché di diffidenza sono piene le fosse. La nostra è appartenenza a una lotta di lotte, risonanza di lotte in altre lotte, diverse e uguali. Perché se mi chiedi di me ciò che sai di te, io dirò di te ciò che so di me.